tutte le volte che passo davanti allo stesso quartiere, sì, tutte le volte ti cerco nei volti, nei corpi, chissà che ti incontrerò. Quei fuochi, le luci, gli spari, la musica forte, le tue mani nei boxer. Tu sei come l'Italia, bella e un po' cattiva, ed ogni volta che ti guardo, mamma mia, sei la notte che arriva, dolce di malavita. Mi è bastato quel bacio, avevo già capito. Ti cercherò negli occhi in una festa di strada, tra i passi della techno e i passi di una lampada. Lo sai che c'è, mollerei in un secondo tutto che non rispondo. Mai più, lo giuro alle altre che non sono te. Ti sto cercando in una festa di strada, magari tu stai cercando me. Barrio lampada. Ti piace la lampada oppure il dembo? Che quando lo balli già penso, oh my god, c'è aria di sfida. Baci la tua amica, poi baci me, vuoi fare un po' i tuoi vestiti sul pavimento. Sei bella, giuro che fai spavento, sto aspettando solo questo momento. Ehi, come sei, come sei, come sei. Tu sei come l'Italia, bella e un po' cattiva, ed ogni volta che ti guardo, mamma mia, sei la notte che arriva, dolce di malavita. Mi è bastato quel bacio, avevo già capito. Ti cercherò negli occhi in una festa di strada, tra i passi della techno e i passi di una lampada. Lo sai che c'è, mollerei in un secondo tutto che non rispondo. Mai più, lo giuro alle altre che non sono te. Ti sto cercando in una festa di strada, magari tu stai cercando me. Barrio lampada. Ti ho già tra le dita come un margarita, vuoi me mamazita? Prima accento e poi rallento, guarda che situa, sembra il Costa Rica. Non senti che caldo che c'è? Ti cercherò negli occhi in una festa di strada, tra i passi della techno e i passi di una lampada. Lo sai che c'è, mollerei in un secondo tutto che non rispondo. Mai più, lo giuro alle altre che non sono te. Ti sto cercando in una festa di strada, magari tu stai cercando me.